bene, va bene. Vuol dire che c'è per un po' ce la sbrighiamo noi. Esattamente. E allora, Fra? Com'è? Ma sempre con Lincoln, sì? Sì, sì. Sempre con Lincoln e col Tanne. Perfetto. Perfetto. Allora abbiamo la stessa radio e lo stesso microfono. Vedi, qualche volta riusciamo a gemellare. Sì. Stesse condizioni, dai. Stessa radio e stesso microfono. E va bene così. Avevo preso una striscia di LED alla Lidl per dai, quei LED bianchi da 5 metri e me lo volevo mettere qua perché ho questa luce, una lampadina molto molto forte e mi dà fastidio, volevo rimanere appena in penombra. E allora me la stavo organizzando con del biadesivo in modo che non tocco il suo e me la provo e va bene. Domani provo a installarmela, così mi dà appena di penombra. Mi troppo voi se la lampadina mi apprendi. No, io l'ho vista quella, però a me mi serve più forte, ho pensato, se poi è leggera ci ho buttato via i soldi, se è leggera. Sì, è bella a penombra, così. Però io per penombra, per quello lì ce li ho già, quelle lampadine, quelle LED. A me mi serve una che fa un bel luce. Che fa molta luce. C'era la striscia, avevo preso quella a 10 metri e me l'ho messa in sala, gli ho fatto un lavoro bellino. E la accendo così, quando dopo cena metto il bianco e lo metto basso, la prima potenza e fa la pena bella, si sta bene, è molto rilassante. E poi mi avevo preso un'altra striscia da 5 metri, che me la dovevo mettere dopo mi faccio la postazione nella camera mia. E la metto. L'avevo già provata. Scusami. Però messa davanti in faccia è troppo forte, quindi devo mettermela di spalle, capito? Mettermela di spalle e trovargli più o meno un orientamento, ma mi basta un po' di luce in sottofondo perché è troppo, la cosa troppo illuminata poi dà fastidio. No, io perché non vedo i tasti della davanti, non vedo i tasti della radio. E allora ne voglio prendere una striscia e metterla qua di fronte dove c'ho la mensola, attaccata alla mensola, sempre adesiva, no? E mettendola lì mi illumina tutti i cosi verso la radio. Sì, ho capito. Il cose che... No, vabbè, a me mi dà fastidio. Mi dà fastidio avere la luce forte in faccia. Guarda, in sala c'è una lampadina e una lampada a LED è 200 watt. L'avevo presa la Elcon, l'ho pagata 40 euro, se non mi ricordo, 36 euro, se non mi ricordo male. Ma è fortissima. Cioè, ci vuole... Se stai a tavola poi ti inviti per guardare la televisione e ti accecca, ti accecca. Quindi dai, almeno qua me ne volevo stare un pochino più con la luce soffusa e stare un po' più tranquillo anche per riposare la vista. Adesso domani provo a piazzarla, me la metto di spalle e vediamo un po'. Sì. Andare, capo. E domani lavori? Domani mattina, sì. E fino alle 4. Perché sta? No, così. Pensavo che eri a casa. Se eri a casa passavo a farti visita quando salivo da Porto Torres. No, fra, devo preparare della roba. E poi... Dai. Domani sera lo stesso e come finisco mi faccio un po' in campagna, e si nomi Tassatore Areba, ed è un problema, ed è un problema. Poi sabato lavoro, domenica lo stesso, questo fine settimana di lavoro. Ecco, sì. Ma per lei, ma hai visto lì che c'è un coso che tu che roba calda, fuoco, non so, fiamma, non so cos'è, e ti brucia l'erba, ti brucia. Quella puoi rasare tutto. Sì, ma si può, da me venivano 8 botte. Oh, yeah, yeah. Senti, prima di cosa, 10 litri di benzina con la pompa di medicare, dai la benzina e poi metti fuoco. E quello si può fare a tempo buono, quando non si può bruciare, quando c'è la foresta in giro, quindi passi con la bomba per medicare e poi poni il fuoco. Secondo me non ti va a liberarti a punirti i manetti. Ma che? Vabbè, quello vuole fatto quando non c'è l'ubbrico, dai. Bisogna stare attenti su quello, perché sul fuoco quando si brucia così non c'è da scherzare, con tutto il casino che sta succedendo. No, io prendo e rasa erba e del cespugliatore, riesco a fare tutto, che poi basta, io mi metto il coso di un pieno al giorno, un pieno di rasa erba al giorno, un pieno di cespugliatore, e sembra così, però quei tre quarti d'ora o quell'oretta ti salvano, perché un pezzettino ogni giorno te lo fai e risolvi il problema dell'erbalta. Però non fa, però il tempo è strano, non fai in tempo a farne un pezzo che torraccio, quindi devi sempre cominciare da capo. Ma il problema mio è che ho gli animali, capito? Io la raso per eliminare quella gramigna, quindi devo tenerla sempre sotto controllo. Vai di nuovo. Capo. Perché tu la fai a mano. Se invece avessi avuto un motocoltivatore, di quei piccolini, una motozappa, una cosa, l'avessi passata una volta ogni settimana, oppure ogni due settimane, è il caso di zero, perché con un piano di benzina saresti riuscito a farla tutta quasi, però ti ha rovinato di più, perché avresti girato sempre la terra, capito? Avresti girato. Certo, dove ti fai l'erbetta, cosa così, no, ma tutto l'altro l'avrei zappato, l'avrei tenuto sempre zappato. Io il pezzo di giù dove non mi interessa che ci sia l'erba verde, prendo e chiamo il trattore, mi prende 60 euro e ci mette 20 minuti, neanche, cioè di più, ci mette mezz'ora e mi prende 50-60 euro. Poi a me dell'altro me lo passo a decifugliatore, non mi interessa, però il pezzo più grande di giù, quello lì me lo fa il trattore, capito? Chi me lo fa fare? Intanto questo dice di mettere benzina, ce l'ho la motozappa io, ho una Benassi bella, però devi prendervi, guardare anche perché diciamo la spesa, perché tanto se la fai a motozappa tra olio di miscelatore e benzina e cose, metti in faccia la motozappa, fai butto, sa che sai. Invece il trattore viene, lo apro mezz'ora, tre quarti d'ora e me lo fa bello, non me lo fa la motozappa, non lo fa come il trattore, perché il trattore prende, passa la fresa, me lo fa in piano, la motozappa non ce la fai a farlo così, capito? Motozappa no, ma un autocoltivatore ce la fa a fare, perché c'è la fresa, e con la fresa capita, quando la passi due volte vai tranquillo che quella lì affonda, è lo stesso. Sì, però dai, il trattore non me lo va a nessuno. Questo io sono 1500 metri, andando a moto coltivatore non ha difficoltà, ma assolutamente. Chiamo il trattore, 50 euro, 60 euro, entra, vasi, annetta, si arrangia e si innamora. Ecco. Vabbè, io non la penso come te, la penso diversamente. io se era stato l'avrei avuta io, avrei preso molto coltivatore diesel, perché adesso ci sono quei diesel, o ci sono sempre stati. Tranquillo che ci avrei lavorato almeno ogni 2-3 settimane, ce l'avrei passato, e quindi guarda, respiri un bel, avresti avuto tutti i giorni il terreno sempre pulito. Se lo passi a maggio il trattore, io ogni anno lo chiamo, viene a maggio, io fino a settembre non lo tocco il pezzo di terra giù, assolutamente, prendo, viene a maggio, fine maggio, e non lo, poi di lì rimane tranquillo, non rimane sempre bello arato, non è cresce erba, vabbè, se lo può fare ad aprile tornare bassa. Io a maggio prendo, lo chiamo, fine maggio, primi di giugno, posso fare una fresata a tutto, e vai, e non ce n'è. Poi sotto dove c'ho gli alberi me lo faccio io a mano, con la motozappa, con le cose, a volte me lo giro anche a mano, con la pala, col coso. Ora ti ripeto, rasa erba, vecchio sfigato, no, te lo pulito. Però io sono un chili di 50, 60 euro, arrangiati, vai, fara a fondo, perché viene con la fresa grande, viene un trattore grande, c'ha la fresa che scende un bel, e un'altra di molti la sottoterra, vero Luis? Sì, il trattore grande, ti aspetta, la fresa del trattore grande scende, quello già lo so. E vabbè, l'importante è che sia sempre pulito, perché... un terreno con l'erba non è tanto bello, e poi quel tipo di erba che c'hai tu è ancora peggio. No, quel pezzo dove sto dicendo il passo trattore lì non mi interessa, però dove metto i giochi, dove c'ho il pezzo del prato verde proprio davanti a casa, dove ho visto che dove c'ho i gazebi, i giochi della bambina, di lì io ho anche gli irrigatori, io metto gli irrigatori, poi una volta alla settimana passo il raserba, e quello è come un plato inglese, di lì ci puoi giocare, di lì se butti la biglia, cammina la biglia, è veramente, chi non te lo può dire, come qua a casa adesso io posso giocare a biliardo nel pezzo di fronte dove sono io, fino al cancello, da in tutta la campagna, posso giocare a biliardo, e non sto scherzando, c'è l'erba, sarà 2 mm, però d'estate devo prendere, ne devo selezionare un pezzo, che è il pezzo dove c'ho, diciamo, appena entri sulla destra, dove abbiamo provato l'altra volta quell'antenna col cavalletto. Quello lo tengo verde, e lì metto i tavoli, gli ombrelloni, i gazebi, mia, adesso ci sono i giochi, ho fatto il parco giochi alla bambina con le casette in legno, con le altalena, e tutte queste cose. E la parte di giù, quella facciamo il trattore, tutto l'agrumetto me l'ho fatto a rasa erba e a disespugliatore. Adesso come cambia la luna mi pulisco anche gli alberi, fine marzo mi pulisco anche le arance, tutto quello che c'è da pulire, ed è a posto, vai, riprendi. Capo, sì, no, è quello che hai fatto a prato, a tipo prato, prato inglese, quella cosa lì, quello già va bene, quello lì basta un tosa erba, viene per i buchi, anzi, è bello avere tutto così. Il brutto è quando c'hai troppa erba imboscata, queste cose qua, sì. Ma quando c'hai un prato così bello, era una meraviglia anche a vederla. Sì, no, io me lo tengo bene. Poi a me quello che mi dà fastidio è il secco, la gramigna, a me mi dà fastidio anche a vederla, capito? Sa di sporco. Tu pensi che mi pulisco anche fuori dal cancello? Non è che aspetto che passi il coso del comune, io prendo, me lo passo il decispugliatore ed è sempre inizio. E quando è brutto a chi non mi posso passare. Però adesso se passi tutto ci siamo puliti io e il bed and breakfast e basta, il latte è tutto pinghinoso, l'altro è tutto e basta. Ecco, ah certo che tipo, allora se tu, ognuno facesse il suo lavoro di fronte alla sua campagna, anche all'esterno, c'è l'entrata pulita, che uno non ama a visitare una persona che vede tutto l'altro che carrogna, che sembra russiasa, altra frasica, dice, gli anni che avono giù grandene. Magari dentro è bello, e fuori fa schifo. Sì. E purtroppo anche la roba di recensione, fra, ci vuole tempo, ci vuole... Dai, noi, io per esempio devo farmi... Cioè, ne ho lasciato un po' adesso questi oleandri nella recinzione un po' lunghi, perché quando viene il trattore a farmi il coso, il tetto della terra, porta anche il trincia con il braccio, capito? Quindi prendo e mi faccio fare la stradina, mi faccio fare tutto il bordo della strada mio, che c'ho quell'oleandro, quel bungaville, che sono un po' alti, però quelli li faccio fare tutti col trincia, col braccio tipo, dai, tipo a terna, e attacca al trincia. E lo faccio tutto passare sia lì e nel bordo della strada interna che porta nel vicolo, perché ci sono canne, ci sono, quindi quello lo faccio fare tutto a rasa erba, a trincia col braccio, e poi a parte in fuori, poi lo faccio fare a parte in dentro, e dopo si immagineggia tutto con la fresa. Poi passo con il rastrello, mi raccolgo con il rastrello del coso e mi raccolgo tutto a mano, però mi serve fare questa sorta di, diciamo, di aiuola alta quanto la rete di recinzione, capito? Lo sto lasciando apposta perché deve essere un po' intensa, in modo che riesce a fare un bel piano di, beh, un bel muro di bungaville e di oleandri, capito? Sì. Ti esce bello, non si piace. Andrà bene. Io invece a pintarmi non faccio nulla, va bene, allora. Però c'ho i vasetti grandi in compenso. Se vuoi te ne do vasetti grandi, se vuoi vasetti grandi te ne do, e se te li prendi già pieni devi chiamare anche la gruetta a portarli su, perché secondo me un vaso di questi qua pesa 500 kg di roba, lascia più lì, ne ho eliminato un bel po', ne ho due grandi adesso di legno, di quelli. Lascia per poi sono anche una spesa, perché ogni due anni bisogna cambiare tutto il terreno, perché poi non ti dà più, non frutta più, e se la fa tutto la terra che ci ho comprato prima, e poi la terra nuova tu non la compra. A chi non le pone il concime, tu metti il concime e poi vedi. E che concime gli metto? Lo stallatico, gli metti lo stallatico, non gliene metti tanto, però glielo metti, fra, e la terra non la butti. Ti buchi un poco di terra, ti veri un poco della doglia di terra sabbiosa, ti compri qualche sacchetto di quella terra di terriccio e li metti un pochino di stallatico e glielo mischi, e così la terra non la butti, lo stallatico sì, quello lì va bene, infatti lo volevo prendere un po' di quello di coniglio, quelle cose lì, ma poi non ho visto come farà da per gli amici, non siamo più vicini, quello già lo so, ma io ho anche quella terra che compro i sacchetti mi, che la usano per i fiori, cosa così. Ma quella fra la terra, poi la devi buttare quella terra lì. Tu quando vieni, se ti batte, ne prendi 3-4 secchi, quello che ti serve, di questa che ho io, dopo che viene il trattore, te ne prendi 3 o 4 secchi o 5 secchi, quella che ti servono, e poi ti vai e ti compri, boh, cosa ne so, un cagliaro di stallatico, però stallatico che non, attenzione che devi prendere, poi ti si viene un po' a casa e moccami, quindi devi cercare di mettere lo stallatico e poi, Franco, attorno al vasetto, nel bordo, diciamo, prima di mettere la terra, devi mettere quella tela quella per la pacciamatura, quella nera, capito? Ci vuole quella tela per la pacciamatura, gli metti quella, gliene lascio un pochino fuori, no? Un pochino fuori, gli metti la terra, un po' di concime, un po' di questa terra sabbiosa, e poi gliela rimbocchi, capito? Metti la piantina e gliela rimbocchi, e piano piano lo annaffi, e vedrai che tu la terra da quel vaso non la butti più, se la butti, la butti via tra 10 anni. E io il terreno nuovo ce l'ho, sono io che non ci vado, non mi interessa di farne queste cose, perché se no faccio a Del Ramone, dove babbo ci aveva adesso ce l'abbiamo noi il terreno, lì dove noi mettevamo le mucche, queste cose qua, gli animali, lì è tuttora, tu devi vedere quando pianti qualcosa come cresce bella forte, è grossa, bella proprio, ma tutto lì, quel terreno è tutto già concimato, tutto è micidiale, solo che sono io che non aggiungo andare. Esatto, tu non hai voglia per i tuoi motivi che mi avevi detto, e anche io per il carattere che ho sono uguale, perché da poi a me quando mi girano i cattoli io non è che so, io non so, a bisticciare io prendo e proprio ti elimino. Però sarà prendermi un po' di terra per i vasetti, sarei andato, sicuramente non sarei andato a comprarmi la terra, fidati. Sarei andato lì in campagna, nel mio pezzo, avevo pigliato, me l'avevo zappata, me l'avevo fatta, e mi avevo portato la terra che mi serviva. Vabbè, va troppo lontano, capisci? Tanto non è a due passi, è tutto bella, non è a due passi da Sors. Sì, e quella è la madronia, io faccio il bagno, pigliamo due pezzi di terra. No, ma se per quello entro, faccio, non mi dice niente nessuno. Vabbè, mi manca lì, c'è roba tua. No, ma per quello non ho problemi. Dico, problemi non ne ho. Sono io che non ho più voglia di fare un cavolo, di affaticarmi. Allora non ti affaticare, fra, se tu non hai voglia non ti affaticare. Io il consiglio che ti posso dare però è non mandronatemi, ma non ammacuccati, hanno mandronati, hanno appusato la gadrea, non fa nulla. Quello è il consiglio che ti posso dare io. Guarda, io grazie a Dio c'è mio nonno ancora che ha 86 anni, 86 anni, e lui ogni giorno va in campagna. Ma va in campagna a mano tigri di chi fa, che prende e fa. Però per esempio ogni anno si fanno le olive, io vado a motosega, gli togli, tolgo i rami, li porto l'albero e gli faccio quello che gli posso fare. E lui e mia nonna prendono e fanno, si posano i chivi, si arrigano i rubani, la mortadella, si salgono in campagna, capito? Rimangono in campagna e si passano la giornata. Oppure a casa si mette a fare cosa ne so, cipolline sott'olio, carciofini, andare a fare i pesi, andare a comprare rubani, andare a fare, non si è, almeno anche se non ha voglia di prendere, di fare roba, prendetene con queste cose. Nota Marco, anche perché tu non è che hai 84 anni, ma tu sei giovane. Tu prendi, almeno una volta al giorno sei andato a camminare, a tenermi, anche perché migliori la pressione sanguigna, migliori tutto, fra. Lo so, prima stavo andando, adesso mi sono fermato un po', prima stavo andando a camminare, non tutti i giorni, ma tre volte alla settimana, stavo andando. E vedi, facevo 6 km ogni volta che andavo al giorno. E poi mi sono fermato, ma non è che mi sono fermo del tutto, ma già esco per quello. Cioè, adesso sono già, finisco martedì prossimo, 10 giorni, che sto scendendo sempre a Porto Torres per fare ginnastica, sto facendo ginnastica più cosa al braccio che cosa elettrico al braccio, che ho avuto un problema e mi sono spassando così, da. Stiamo facendo le tue visite, le tue cose che devi fare, va bene così. Però fra, anche prendere, stare all'aria aperta, purtroppo lo sai cos'è, che magari a te tu hai la cosa di prendere, vabbè che non è che tu non è che stai seduto davanti alla radio a fare, perché questa è una passione bella, però non è molto salutare. Questa passione non è molto salutare perché ti porta alla sedentarietà, a stare seduto, a stare a casa, a non far nulla. Quindi questo io a volte evito anche di accendere, di fare. Ora, io le radio le accendo la mattina presto quando mi alzo, no? Perché metto in 80 metri e mi ascolto qualche QSO, mi ascolto se c'è qualcuno, nel frattempo mi preparo. Poi spengo tutto. E quando rientro a casa alle 4, 4 e mezzo, alle 5 le accendo, ma me ne vado fuori. Perché se sto, io a volte evito anche di fare chiamata, perché se io poi mi siedo e rimango tutta la sera seduto ed ecco che mi succede il guaio. Scusa un attimo, devo stare un po'. Vabbè, quello sì, ma io non è che sto sempre seduto qua, e tu gli arruedi, che non è sempre che ci sono io. E quando sono radio vuol dire che sono fuori, e o sono in giro o c'è gente oppure mi sto divertendo in altre cose. Sì, ma infatti no, ma sto dicendo, non è il tuo caso, però molti radioamatori distinti anche in 40 metri, quelli che ascolti, che sono tutto il giorno in radio, tu pensi che quelli stanno bene? Quella gente che ha problemi, ma problemi creati anche dalla, quasi posso dire, dalla sedentarietà della vita, Cioè uno che è radioamatore 30 anni, 40 anni, e la mattina si alza la mattina e si mette in radio, poi prende, va al lavoro, magari lavora in ufficio, e poi arriva a casa e si siede in radio e magna, bisi, vasi, chi su di voi, secondo te da poi come è andato a finire? Così è peggio. Però dei radiomotori, di quelli che sento sempre 40 metri, ce ne sono due o tre, mi sembra che sono in sedia a rotelle, sono invalidi, e quelli non possono neanche uscire. Secondo te è bello, non mi pare una cosa giusta, se va bene a loro, se è andata bene a loro. Sì, ma infatti questa gente, io dico sempre, questa gente qua, quella che senti sempre tassativamente in radio parlando, quelli sono, sì, è gente che magari è in pensione, disabile, ha problemi, perché altrimenti uno è impossibile rimanere così tanto tempo davanti alla radio, ma proprio impossibile. Guarda, a me la radio mi sta, io mi accontento di prendere, vedi, dopo cena, giusto per non stare attaccato alla televisione, perché per non ascoltare quelle fesserie dicono di quattro giornalisti, e per non mangiare, per mangiare e per scoricarmi subito. Allora quel paio d'ore te le passi qua seduto e fa bene, così fa bene, perché non stai, non vai subito a letto, e già la posizione da seduto ti permette di avere già una buona digestione per la notte, perché altrimenti me ne potrei andare in garage, farmi qualche lavoretto, ma devo stare lontano, anche lontano da mia moglie, da mia figlia. In questo modo ogni tanto stacco, vado fuori, mi faccio la chiacchierata, faccio le cose, e poi rientro, mi segui, però va bene come, però va bene la notte è perfetta, vai riprendi. Ehi capo, tu pensa una cosa, se io avrei avuto un garage come ce l'hai tu, me l'avrei attrezzato, perché l'avrei attrezzato tranquillamente, la radio me l'avrei dimenticata, mi sarei dimenticato della radio, di avere la radio, tu non ci crederai, perché a me l'ubi meccanica, l'ubi fai da te mi piacciono troppo. Strano, ancora che anch'io sono sempre io quando sono sempre in garage, per esempio, non è che gioco, io sono entrato che erano le sette e mezzo da garage, cioè, ma non puoi stare tutta la notte in garage, attenzione. Anche a me mi piace l'ubi, mi piace fare, mi piace progettare, mi piace riparare, mi piace inventare, però non fossi stato sempre in garage, no? Allora mi butto un letto in garage. Capo, no, non c'entra, uno come te, tu lavori ancora, ma come me che sono in pensione, mi sarei, durante il giorno mi sarei svagato, io ho attrezzatura, ho cose che non le posso usare perché non le uso perché non c'ho posto per usarle. Se avrei avuto il posto per usarle, infatti quando le ho comprate pensando che mi facevo un pezzo di garage, invece allora ce l'avevo un garage prima, poi mi è stato buttato giù e via. Capito? E adesso non c'ho niente. Purtroppo. Purtroppo anche io ho tutto lo stesso, sono saldatrice, ho la banco, trapanco, l'ho, ho tutto, taglio plasma, faccio tutto. Qualsiasi tipo di attrezzo è, ce l'ho, non avere l'unica cosa che mi manca, no, è la serie delle chiavi a battere a massa e basta, poi del resto ho tutto. E il tornio, mi manca, quelle due cose mi mancano, poi del resto ho tutto. Quindi vado la circolare, vado tutto, però io in garage faccio anche altri lavori e non posso mettermi a fare roba di legno perché se ho roba elettronica attaccata, roba elettronica in riparazione, non mi posso mettere a fare roba in legno. Se ho roba in legno mi posso mettere a saldare, quindi non serve un garage, serve un capannone, fa tutto questo mi salta a capo. Logicamente io non ci vado, io non vado al bar, non sono il tipo che me ne esco sabato notte e me ne vado a ballare perché già mi basta quando sono fuori per lavoro ed e quindi basta già quello quando sono in piena foga di lavoro e quindi d'inverno devi stare anche un po' presente in famiglia, devi quando devi stare con la bambina, devi dare le attenzioni, devi fare la spesa, devi sistemare, devi fare tutto, devi fare campagna. Se non avrei avuto la campagna e avrei avuto solo il garage, può darsi che ti avrei dato ragione. Però quando c'hai campagna, garage e tutte le cose che va, non sei nel culo di un capo. È diverso. Diverso con le condizioni che sei tu, perché tu c'hai tutto, c'hai garage, c'hai terreno, c'hai tante cose, devi fare uno e l'altro, purtroppo se fai il terreno non puoi fare in garage, è diverso. Io stavo parlando diversamente, sono diverso da te, io non sono di avere il garage, ma non c'ho neanche il terreno. Che diverso. Esatto, io faccio tutto ma non faccio nulla, avvidati. Io non sento più di più capo, non sono per sbatterti la testa a volte. Io la mattina la prima cosa che faccio quando esce la luce, prendo e esco fuori. A volte evito di andare in certi punti della campagna perché altrimenti vedo cosa c'è da fare. Capito? E allora giro, mi prendo la boccata d'aria fresca, mi gioco un po' i cani, faccio quello che devo fare e poi entro in garage, apro la porta e mi metto a controllare quello che realmente devo fare, che mi serve. Però poi mi prendi e hai anche l'esigenza di fare in campagna, quando a volte a me mi dicono la domenica ci viene a far venire a farvi un giro, non posso, perché? È perché mi devo sistemare roba. Ed è la verità, fra, non è che non vuoi andare, non puoi andare perché? Perché hai tantissime cose da fare, e quando sei da solo, perché mia moglie non si può mettere a passare mia moglie ad a pulire casa, ad attendere la bambina. Dai, le classiche i classici doveri e i compiti che fanno le mogli in casa, poi anche lei si deve riposare dopo una settimana di lavoro. Ma io ho qualche giorno libero e quindi devo approfittare per sistemare un po' tutto, anche perché questa casa vuole pian piano, tasca permettendo, tempo e fare tempo buono e coso, ogni tanto si mette da parte qualche spicciolo di cui una zappurata. E ve pure visto da va, un preso. Capo, sì. Quello già è vero. Caspita, guarda. A Pototorre un 55enne che ha stroncato. Deve essere un malore. Capita a Pototorre. Non ho scritto assoluto. E chi è? Non c'è scritto. Oh, ma tu lo sai che non c'ho internet. Come mai? Non lo so, problemi. Se avessi qualche problema, non prende internet né mio, né di mia moglie, di internet di casa, non prende internet di niente. Ma qui ce l'ho. L'altra settimana a me mi è mancato, infatti l'abbiamo chiamato. E ci ha detto, dice che c'era un problema grosso, c'era nei punti, non so, vediamo di sistemare al più presto possibile. Ma se hanno un problema, fra, bisogna solo prendere, aspettare e pazientare, lo vedi. Qua ci sono i pro e ci sono i contro, ci sono i pro e ci sono i contro. Non piglia internet, no, ogni cosa è di sci, adesso di in gasolio e di in tutto. Qua ogni volta che ti muovi sono soldi, perché il primo servizio ce l'ha a 5 km, è a Sorsi. Poi da Sapidi, che a Sassari. La strada di Sassari la facciamo 6 volte al giorno, più 4 volte io, più riesce a fare la spesa, manca quell'altro ancora, e sicuro dentro di gasolio non visto. Sì, e tu pensa adesso, io 10 giorni che sto viaggiando a Porto Torres e non c'è entrata, è solo sul di persi viaggiare a Porto Torres tutto un giorno. Per 10 giorni, poi non si sa se questo medico adesso me ne dà altri 10 giorni, me ne dà altri 10 giorni, è quasi un mese che sono venuto a travagliare, come ti sia venuto a travagliare, però senza intruito. Lo so, fra. Cosa fai, però non lo fai, devi farlo per la salute. L'ho fatto sì per quello, l'ho fatto e lo sto facendo per quello, anzi quando l'ho avuto qua a Porto Torres, perché prima mi volevano mandare a Osiri, ma te capita, se da buono mi viaggia tutti tu gli arini a me a fare la cosa, ti faccio un arini a Osiri, no, non esiste. E allora cosa ho fatto? La visita me la sono fatta qua a Porto Torres, mi ho fatto la visita a pagamento e tutto il resto con l'avuto. A me mi è andato bene. Sì. Fra, no, Ossieri sarebbe stato dispendioso 3 volte più. Andò a Ossieri, mi pare, diciamo, quanto sono? 40 chilometri da Sassari, figurati da Sorso. Ui, a Ossieri, pagari da Iarda, devi fare... No, lascia perdere. Non è fattibile tutti i giorni andare a Ossieri, è fatto bene a Porto Torres e Ciccio. 9 chilometri si è arrivato. è il fatto che magari al produttore c'è più gente, ma se tu hai un appuntamento a te della gente che c'è in attesa non te ne frega niente. Se tu devi entrare chi sura, vai, cioè sei tranquillo. Io arrivo lì alle 11:10, l'11 e un quarto arrivo, no? Perché io ho l'appuntamento alle 11:30. Cioè, mi siedo, direttamente mi siedo, poi esce lui, io fuori si vado dentro, e io vado dentro. E là di canto che ne so fura, per il borsa 50, non me ne frega niente. Sì, tu hai il tuo appuntamento. Tu hai il tuo appuntamento e poi saranno loro a incastrare i nuovi, diciamo, i nuovi pazienti. Purtroppo è così. Tu pensa che c'è gente per fare le visite all'appuntamento 2026, malati. Oia, cosa si vuole fare? Purtroppo la sanità italiana è così. E siamo fortunati quando abbiamo le cose gratuite e ce le danno, ma se no dobbiamo anche prendere e attaccarci al tram, per non dire altro. Oh fra, e beh, ma dimmi una cosa, ma è buona sempre l'emissione radio? Sempre stabile, sempre bella, sempre normale, come sempre, come stasera. E no, è bella, va benissimo. Poi se non mi hai detto niente vuol dire che va bene anche la mia. Sì, no, io ti sto ascoltando qua. Come quando chiacchieriamo, come quando si chiacchiera di verticale, quindi non per me non ci sono problemi, io ti ascolto in un modo, guarda, fenomenale, in un modo ottimo, in una precisione impeccabile. Non ci sono problemi. Per me sia la modulazione che diciamo il segnale sono, vabbè, il segnale lasciamo perdere, e se scendi la, i leggini si deve scendere attaccati all'altra radio, però come presenza radio e come amplificazione, dai, e tutte le particolarità, sei al top, va benissimo, riprendi. Sono belle radio, sono. Questa mi è sempre piaciuta a me, infatti questa da quando ho iniziato mi sembra che è la seconda, la terza, questa qua. Questa me l'hanno regalata, questa è un regalo che mi ha fatto Gianluca di Porto Torres, Poldo. Sì, e questa volta me l'hanno regalata. Mi attivo. Capo, pensavo non stavo uscendo del radio. Tino, dove l'hai sentito? Nel monitor nostro. Io sono qui, qua e là e dappertutto. Buonasera. E signor modulazione. E sono anche fuori frequenza. Aspetta che mi metto gli occhiali perché sono fuori frequenza. E sa, al doppio di te, capito? Adesso vediamo un pochino. Aspetta. Oh, sono qua, ero fuori frequenza, va bene, dai. Comunque ciao, buonasera a tutti. Buonasera Tino, è ben sentito. Bravo, neanche il doppio di te. Eh beh, noi adesso dobbiamo. Dai. E il tipo di modulazione sua quella, vai ti. Ma state parlando di statura. Stiamo parlando, dai, di potenza di emissione. Fai un altro passaggio a vedere. Vabbè, io ho appena acceso, quindi non è che vediamo un attimino. L'ho appena acceso, proprio appena mi hai detto entra là. Sì, fai un passaggio, fra. La mia non può essere uguale a quella di Tino. Quella di Tino è molto squillante, è forte. Sì, è forte. Essere forte è forte. Però io ti posso dire una cosa, che avete una diversa qualità audio, nel senso che lui è di quelli a prendere a rompere tutto, noi abbiamo una modulazione un po' più riposata. Vai Tino. Ho capito, vabbè, devo parlare più sereno, più tranquillo, più vicino al mic, così bene va. Sì, abbassa anche, guarda, ti faccio un esempio, Fra, facciamo sentire una cosa, Franco. Ti abbassa, metti il mic gain della, mettilo a 1. No, guarda, faccio così, tolgo il processore e tutto cosa cambia. E beh, Fra, cosa dici? Adesso sì, è perfetto. No, sai cos'è Tino? Che modula, quando modula il tour devo abbassare, quando modula lui devo abbassare. Basta dirlo, tolgo il processore e tutto finisce lì. È più rilassante, più tutto, va bene. Come mi ascolti Tino? Con le orecchie. Con le orecchie, ma di dove? Con le orecchie di basso. Va bene. Va bene? Come, o è troppo bassa di radio? No, è la stessa timbrica di Franco, quindi non posso dirti di, né di più né di meno, perché ti ripeto, se vuoi fare un paragone tra microfono e microfono devi farmelo in diretta. No, stiamo usando le stesse radio e gli stessi microfoni. Ah, ok. Vai Fra. Infatti, stessa radio e stesso microfono. Uguale identico, di potenza diciamo lasciamo perdere. Di radio rimane più, quale rimane più forte? Allora, a mio parere, quella di Franco è più alti, più toni bassi, cioè più toni alti, raccoglie un po' di QRA familiare, è un po' più amplificata. Quella di Gavino è molto più pulita, più comprensibile, meno amplificata. Fra, stiamo usando gli stessi watt, io non ne ho amplificatore attaccato. Ma neanche io ne ho amplificatore attaccato. Io sto usando, quasi 20 watt. Scendo a 10, eccolo qua, 10 watt. Niente. Anche io. Io sto usando 10 watt. 10 watt. E vabbè, io ho la capsula diversa da Franco e forse mi dà, è molto più dinamica, molto più reale la mia emissione, ma perché Franco può portarne l'originale con la sua capsula, io invece no, tu sai come lo sto usando, quindi forse molto anzi la differenza è quella. Vai, riprendi. Fai un passaggio Fra. Tu non hai cambiato la capsula la tarda, l'hai cambiato allora Gavino. Ti ho mandato anche la foto Fra del timer mio, si vede che sono vicende. No vabbè, comunque avete pari lo stesso segnale, vi ho attenuato a 9 entrambi, siete uguali. Sì, me l'avevi mandata, sì, stai usando quel microfono là. Te lo sono dicendo io. Sì, sto usando quella capsula. Tino, sto collegando il P5 un attimino di là, Se vuoi accendere un attimino te lo faccio sentire. Sì, aspetta che... Vabbè. 480. Sì, vai Fra, tu ce l'hai quella 480? 480 dove però? Oh, scusatemi un attimino, datemi un secondo Gavi, che vado a prendermi gli occhiali, sennò qua non ci vedo un H. CRM acceso, certo. Sì, quello ce l'ho acceso. Ora? Chi è? avanti. Buonasera. Buonasera, avanti. Sono Cristian. Chi? Cristian. Scusa, ma non ti occupo, Sì. E poi copiarmi, Cristian. Ah, ciao Cristian, buonasera. Ci ascolto, dai. In mezzo al QRM, come mai? Io sto con la macchina. Prova a fare un passaggio a vedere. Ok. Ti ascolto in mezzo a sei, in mezzo ai palazzi. Ma sono in campagna. No, ok. Non lo so, forse Tino ti occupa meglio di me, si è allontanato un attimino per fare, dai, una cosa e riprende. C'è anche Franco da Sorso. Come mi copi qui? È chiara la radio? È la radio. Ok. Eccolo. Guarda che c'è Cristian. Sì, già lo sento. Ho voglia. Ciao Cri. Vediamo un attimino qua. Ma perché mi si abbassano le lici? Boh, il carrier. Sarà, comunque. È mandrone. Ciao Cri. Sì, effettivamente si è basso il radio. Il segnale c'è, però la radio. Ti ho detto di prendere un microfono amplificato. Quindi ce l'hai? Vabbè, provalo. Se va bene, se no troveremo un rimedio. Va bene, perché di segnale c'è, però non c'è la radio. Gavino, vedi, ora mi si è nuovamente alzato oltre l'LC, il carrier. Non lo so se sta difettando o se è una cosa normale. Adesso lo abbassiamo. Adesso l'ho messo dentro l'LC. Però ogni tanto mi sparisce, non so perché. Va bene, ciao Cri, ciao. Mi hai copiato, Gavino. Ho sentito Cristian che stava salutando, ciao Cristian, dai, tu. Guarda, mi rimaneva fermo. Io per esempio il carrier in FM lo tengo sempre appena sopra la terza tacchetta, ma ti sparisce e non va, sì, col tasto numero 6 a vedere se è questione di impostazione di tasto. No. Col tasto numero 6 metti la LC oppure il coso? No, infatti è DB praticamente dalla LC. Però se io lo metto al limite della LC, molte volte succede che vado a modulare, i watt ci sono, però le tacchette della LC scendono a zero anche. Però il carrier è sempre a 3. Ah, ok. L'LC. Io sto perdendo la memoria. Allora, l'LC. Ah, ok, tu stai parlando. Boh. Io lo tengo perché una volta che vado che guardo l'LC, io lo vado sempre in SVR, quindi lo tengo sempre lì per controllare l'SVR. Non mi sono accorto di questa cosa qua, lo sai. Sei entrato? Andare. Sì, vabbè, io mi metto l'LC quando poi le sedute più verre, insomma, lo faccio comunque, però in FM la tengo così. Sì. Boh, no, non l'ho mai. Mi rimaneva sempre fisso. Comunque a me l'LC è. No, il carro da dentro la linea rossa arriva sempre fisso, invece se ne va a zero a volte. E a volte, adesso per dire, ce l'ho in SWR e c'è solo una tacchetta e basta, ma siccome visto che l'antenna è buona, è già accordata tutto quanto, vado con la LC, no? Lo metto dove c'è scritto proprio DB a LC, che mi dà sia la mia LC che la vostra in trasmissione. Sì, sì, noi dovremmo superarla oltre lo zero, quando va bene, se la radio è buona. E diciamo che arrivi allo zero, tu e Franco. Sì, sì, però se attacco anch'io 4,50 lo supero. Vabbè. Adesso per dire ce l'ho a stecca, proprio filo LC, che posso anche aumentare e va oltre, però è sconsigliabile. Molte volte invece, quando non lo lascio fermo, vado a parlare e anziché ritornare a fondo scala è, diciamo, a zero. È quello che mi sta facendo un piccolo difetto, che magari vorrà un po' lubrificato, non lo so, boh. Prova a lasciarla accesa, prova, che già si riprende. Già si riprende, non so se ti dico una cosa di là. Sì, ma è sempre accesa. Vai, Fra. Capo, vabbè, dai, magari se le lascio un po' si irritano un po', ma poi si riprendono.